Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Nel pieno ponte dell'Immacolata le notizie economiche non mancano e soprattutto sul fronte della politica economica è stata una giornata piuttosto convulsa. I deputati della Commissione Bilancio hanno continuato a lavorare anche nel fine settimana e alla fine, come avete sentito anche nel nostro giornale radio, è passata la finanziaria alla Commissione Bilancio. Vedremo poi che cosa succederà in aula, però con qualche protesta dell'opposizione. Sentiremo le voci di giornata e cercheremo anche di analizzare un pochino meglio questa manovra che appunto però deve ancora passare dall'aula. Parleremo naturalmente e come sempre di mercati in una giornata piuttosto debole complessivamente, senza grandissimi spunti a dire la verità. Il FTSE All Share cede lo 0,46%, il FTSE MIB altrettanto, mezzo punto percentuale, deboli complessivamente sono tutte le piazze finanziarie europee, mentre il Dow Jones in questo momento è in lieve guadagno. Parleremo del vertice di Copenaghen, anche noi naturalmente sul fronte economico, e vedremo di capire un pochino quali sono i costi di questo del cambiamento climatico e soprattutto dell'adeguamento al fatto, insomma, che il cambiamento climatico in qualche modo va affrontato. E poi parleremo della Grecia, per la quale si parla sempre più insistentemente di un rischio di default. 349-238-6666 per i vostri sms. Come sempre, le notizie in breve di questa giornata. Come sempre in apertura, a New York è aperto a $75 al barile, in calo di mezzo punto percentuale. Nel frattempo però proseguono i rialzi dei carburanti. Shell vola a 1,330 euro al litro per quanto riguarda la benzina verde rispetto allo scorso ponte dell'Immacolata. Giusto per dare un'idea, si calcola un rialzo intorno al 13% del prezzo dei carburanti. E anche di questo in qualche modo si parlerà naturalmente al vertice di Copenaghen. È iniziato oggi un vertice che molti definiscono storico sul clima, ben prima che si concluda, è la 15ª conferenza ONU sui cambiamenti climatici. Ci saranno 103 tra premier e capi di Stato, approfondiremo più avanti i temi che riguardano appunto il vertice di Copenaghen. Certo è che qualche dato emerge già adesso e sono dati forniti dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel rapporto World of Work 2009. Dall'imposizione di un costo sull'emissione di CO2 in discussione alla conferenza sul clima di Copenaghen e l'utilizzo di questi fondi per tagliare le imposte sul lavoro porterebbe ad un aumento dell'occupazione dello 0,5% entro il 2014, parliamo di livello mondiale, il che equivale a più di 14,3 milioni netti di nuovi posti di lavoro appunto per l'intera economia mondiale. E però l'ILO ci dà anche qualche segnale preoccupante. Dice: una sospensione prematura delle misure di stimolo adottate in risposta alla crisi economica globale potrebbe ritardare di anni la ripresa dell'occupazione e rendere la fase iniziale della ripresa economica fragile e incompleta. Se non saranno adottate, dice ancora l'ILO, in alcuni casi prolungate le misure adeguate, oltre 40 milioni di persone potrebbero uscire dal mercato del lavoro. E poi in Europa, dati sull'Europa sempre dall'ILO, 6,1 milioni i posti persi in Europa da marzo 2008. A proposito di piani di stimolo, il presidente americano Barack Obama si prepara a spendere parte dei $700 milioni del TARP, il Troubled Asset Relief Program, a sostegno dell'occupazione, in una mossa che va contro le indicazioni degli economisti conservatori, secondo i quali le risorse dovrebbero essere destinate a ridurre il debito. Lo riporta il Financial Times, secondo il quale il segretario del Tesoro americano Timothy Geithner stima che entro la fine dell'anno le banche che hanno ricevuto aiuti restituiranno $175 miliardi. E proprio a proposito di occupazione degli Stati Uniti, è previsto nella giornata di domani un discorso di Obama in merito a questo, dopo l'importante vertice che c'è stato giovedì scorso. Sempre notizie dall'economia internazionale, la Cina proseguirà nel 2010 a seguire una politica monetaria moderatamente espansiva, intensificando allo stesso tempo gli sforzi per sostenere la crescita economica. Lo ha deciso l'annuale conferenza centrale sul lavoro economico, che si è riunita nel fine settimana a Pechino. Alla riunione hanno preso parte i principali dirigenti cinesi, tra cui il presidente Hu Jintao ed il premier Wen Jiabao. Dal fronte europeo arrivano le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, che è intervenuto in un'audizione al Parlamento europeo. Dice un apprezzamento graduale del dollaro, dello yuan e di altre monete dei paesi emergenti nei confronti dell'euro è nell'interesse della stabilità e della prosperità mondiale. Al momento, nella zona euro nel suo insieme, non si travedono i segni di una stretta creditizia, ha detto ancora Trichet. E poi ha parlato di liquidità. La Banca Centrale Europea continuerà a fornire la liquidità alle banche per tutto il tempo necessario, almeno fino a metà aprile del prossimo anno. Così Trichet, sentiamo. Le condizioni complessive del finanziamento continuano a migliorare e questo dovrebbe sostenere la domanda di credito nel periodo a venire. Al momento, nella zona euro nel suo insieme, non si intravedono i segni di una stretta creditizia, ma stiamo monitorando gli sviluppi molto attentamente. Alla luce di questo scenario, riteniamo che i tassi di interesse attuali all'1% siano appropriati. Per rispondere alla crisi finanziaria, da ottobre 2008 sono state introdotte misure straordinarie che sono state molto utili nei momenti più critici, sostenendo la capacità delle banche di fornire credito all'economia. Come sapete, queste misure sono state pensate avendo ben in mente il momento in cui sarebbero state ritirate. Ho sempre sottolineato come il ritiro delle misure straordinarie dovrà essere graduale e tempestivo, arrivando al momento giusto, né troppo presto né troppo tardi. Il ritiro deve essere graduale, perché la situazione sta migliorando solo gradualmente e restano i rischi legati a una grande incertezza. È importante che venga evitata una situazione in cui le banche siano pesantemente dipendenti da misure eccezionali di finanziamento da parte della banca centrale. La BCE continuerà a fornire liquidità al sistema bancario per tutto il tempo necessario, almeno fino a metà aprile 2010. Molti paesi della zona euro stanno affrontando una situazione di squilibri di bilancio molto elevati, che non sono sostenibili nel lungo termine. Questo potrebbe indebolire la fiducia di famiglie e imprese, con effetti negativi sul mercato, portando così a tassi di interesse nel medio e lungo termine meno favorevoli. Posizioni di bilancio insostenibili possono anche complicare l'obiettivo della nostra politica monetaria di mantenere la stabilità dei prezzi. Of our monetary policy to maintain price stability. E Trichet ha parlato anche della situazione dei conti pubblici della Grecia, è molto difficile e servono misure coraggiose, queste le sue parole. Tra l'altro siamo in attesa, alle 18 il presidente della Federal Reserve Bernanke dovrebbe parlare al club economico di New York, sentiremo che cosa avrà da dire, vedremo se riusciamo a farvi anche sentire qualcuna delle sue parole. A proposito di Grecia, Standard & Poor's potrebbe tagliare il rating sovrano del paese, attualmente pari ad A-. L'agenzia di rating ha messo il rating della Grecia in credit watch negativo, ossia sotto stretta osservazione per una possibile bocciatura. Abbiamo parlato del presidente della BCE Jean-Claude Trichet, veniamo alla Banca d'Italia che ha diffuso dei dati interessanti oggi. A ottobre il tasso sui mutui è ai minimi storici, sotto il 3%, mai così poco cari per le famiglie italiane. Quanto risulta dal supplemento al bollettino statistico della Banca Centrale Italiana, ottobre il tasso medio applicato ai mutui per l'acquisto della casa è sceso alla quota di 2,97%. Un anno fa, pensate, il tasso medio registrato da Banca Italia era quasi il doppio, al 5,76%. Non accenna a diminuire, invece, il tasso medio relativo al credito al consumo. A ottobre, sempre secondo lo stesso documento, è pari all'8,81% dall'8,9% 92% di settembre. Vanno peggio invece le cose per le imprese. Si accentua in ottobre il calo dei prestiti. Secondo sempre il supplemento al bollettino statistico, gli impieghi alle imprese non finanziarie sono calati dell'1,6% rispetto allo stesso mese di un anno fa, una stretta che rappresenta un peggioramento rispetto al meno 0,1% su base annua registrato in settembre. Gli effetti della crisi del resto sulle imprese si fanno sentire parecchio. Secondo il CERVED, i fallimenti e i concordati preventivi sono in sensibile aumento nel terzo trimestre dell'anno, più 40% e più 73%, come anticipato del resto dal Sole 24 Ore oggi in edicola. Il campanello d'allarme appunto lanciato da CERVED Group. Il fenomeno ha interessato tutti i comparti dell'economia, soprattutto i servizi alle imprese, più 58%, e la manifattura, più 57%, l'Emilia Romagna è la regione con la maggior crescita di procedure fallimentari, più 115%, seguita da Marche, più 80%, Piemonte, più 70%, Puglia, più 55%, Veneto, più 49% e Lombardia, più 45,5%. E adesso passiamo a parlare del primo tema di giornata, ossia la finanziaria. Dunque, la Commissione Bilancio della Camera, come si diceva, ha dato il via libera alla finanziaria e al bilancio dopo aver approvato rapidamente il maxi emendamento del relatore. Al voto hanno partecipato solo i rappresentanti della maggioranza, che in poco meno di 10 minuti hanno bocciato circa 150 emendamenti dell'opposizione. La manovra dovrebbe essere all'esame dell'intera aula da mercoledì prossimo, ossia dopodomani. La manovra vale 8,9 miliardi di euro per effetto degli emendamenti governativi. Il valore è sostanzialmente triplicato nel giro di un mese rispetto ai 3,4 miliardi della versione approvata dal Senato in prima lettura. Sul fronte delle coperture, 3,7 miliardi dallo scudo fiscale, 3,1 dalla norma sul TFR, il resto da rimodulazioni di spesa. Ma facciamo il punto. Alla fine, la finanziaria 2010 non sarà così light come inizialmente previsto. Nella sua attuale versione, la manovra vale infatti poco meno di 9 miliardi di euro, quasi il triplo rispetto ai 3,4 miliardi della prima approvata al Senato. Le coperture provengono per 3,7 miliardi dallo scudo fiscale e per altri 3,1 miliardi dal trasferimento al tesoro di fondi TFR affidati all'INPS. Il resto sono rimodulazioni di spesa. Dove saranno destinate queste risorse? I proventi dello scudo andranno a finanziare principalmente le missioni militari all'estero, a cui sono destinati 750 milioni di euro. L'università, la proroga del 5 per 1000 e il sostegno all'autotrasporto ricevono 400 milioni a testa. 130 milioni andranno poi alle scuole private, 103 milioni serviranno per i libri di testo gratis nelle scuole dell'obbligo e altri 100 milioni per la proroga delle agevolazioni agricole. Tra le novità della finanziaria nella sua ultima versione c'è la conferma della Banca del Sud, voluta dal ministro Tremonti, ma protagonista di un percorso parlamentare piuttosto accidentato. Confermata poi la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, 229 milioni in meno nel prossimo anno. Per compensare, comuni e province dovranno ridurre di un quinto il numero degli assessori. Aumenta di 200 milioni il credito di imposta alle imprese che investono in ricerca. Altro capitolo importante, il pacchetto welfare, che vede complessivamente 975 milioni di euro, che serviranno, tra l'altro, a potenziare l'indennità per i lavoratori precari e a prorogare la cassa integrazione in deroga. Escono invece dalla finanziaria la proroga degli incentivi auto, gli sgravi fiscali per le banche che hanno aderito alla moratoria sui debiti delle PMI e gli indennizzi per gli azionisti Alitalia. Questo dunque il quadro generale. Tra un attimo sentiremo anche qualche voce politica raccolta dalla nostra Valeria De Rosa in merito appunto alla manovra, sia di centrodestra che di centrosinistra. Io intanto saluto Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buonasera. Eccomi, buonasera. Dino Pesole, nostra guida, come sapete, quando si tratta di manovra finanziaria. Dino, ho due domande subito per te. La prima: come siamo arrivati a questi 9 miliardi dai 3,4 dai quali siamo partiti? Insomma, la manovra è triplicata nel giro sostanzialmente di un mese. o addirittura meno di un mese. E la seconda cosa è quanto c'è di strutturale in questa manovra, perché abbiamo sentito, accennavamo già prima a quali sono le coperture: una parte lo scudo fiscale, dall'altra parte una norma appunto sul TFR. Anche questo mi sembra un nodo importante per capire, insomma, quanti poi di questi provvedimenti possiamo aspettarci di tenere anche per il futuro, insomma, per l'anno successivo. Dino. Sì, effettivamente si era parlato, quando il governo ha varato questa finanziaria leggera, era 3,4 miliardi, di una finanziaria leggera sostanzialmente senza manovra, perché questo era il testo che il governo ha approvato a fine settembre e che il Senato ha licenziato un mese fa. Cioè si faceva solo un intervento di manutenzione, per così dire, sulla manovra triennale che il governo ha anticipato nel 2008, quella sì è stata una maxi manovra, e dunque Tremonti disse non è necessario fare interventi sui saldi. Però lo stesso Tremonti, a onor del vero, in quell'occasione disse ne riparliamo alla Camera, perché lì quando avremo la cognizione di quanto si potrà incassare dallo scudo fiscale si potrà avviare una ridistribuzione, eccetera. Dopodiché cosa è accaduto? Che è accaduto quello che accade per ogni legge finanziaria, cioè che poiché si tratta della legge più importante che mobilita risorse pubbliche, attorno a questi pochi, devo dire, pochissimi stanziamenti si sono riversate delle aspettative molto molto più ampie. Dunque è stato necessario, molto faticoso è stata la discussione in Commissione Bilancio alla Camera, perché è stato necessario prima identificare le misure che il governo voleva introdurre in finanziaria, dopodiché varare un primo maxi emendamento che è stato dichiarato in parte inammissibile, in parte ammissibile, e poi c'è stata tutta una procedura successiva in base alla quale il relatore poi di fatto ha riscritto interamente due articoli della finanziaria, cioè vale a dire l'intera manovra, e ha presentato in commissione un nuovo testo. Dunque, certamente rispetto alla finanziaria leggera, anche fisicamente, il testo del Senato era di pochi articoli, tre articoli appunto, ma anche di misure molto, molto ridotte. Adesso siamo a 280 commi e quindi insomma è diventata una finanziaria pesante, anche dal punto di vista delle risorse in gioco. E quanto di strutturale c'è, ahimè il problema fondamentale è che questa è una finanziaria che sconta l'assoluta e totale mancanza di risorse, e quindi occorre ricordare che tutto quello che è stato messo in campo si deve a misure di carattere straordinario, vale a dire i proventi dello scudo fiscale ci sono adesso ma poi finiranno perché è un una tantum, e la norma sul TFR è nient'altro che un anticipo che il Tesoro chiede all'Inps e fa una manovra sostanzialmente una partita di giro contabile. Dunque di misure di impatto notevoli e di risorse nuove non ce n'è. Però appunto si può concludere questo ragionamento dicendo che in mancanza di una disponibilità, perché noi abbiamo un deficit quest'anno che andrà al 5,3% del PIL, avremo una caduta del PIL che sarà attorno al 4,5-4,8%, e dunque in una situazione del genere sostanzialmente gli spazi di manovra erano ridotti all'omicino. Quindi forse una manovra necessitata, probabilmente si sarebbe potuto evitare tutto il caos della settimana scorsa. Grazie dunque a Dino Pesola, mi sembra chiarissimo e assai completo il ragionamento. Così chiudiamo questa parte della manovra prima riferendovi di una notizia che è arrivata da Bruxelles, dove si stava svolgendo il Consiglio Energia Europeo, che ha dato il via libera al pacchetto di interventi sull'efficienza energetica. Arriverà a gennaio il decreto legge con la proroga degli incentivi destinati a sostenere i consumi e a favorire i prodotti con una più alta efficienza energetica e minori emissioni di CO2. Per dirla brutalmente, si parla degli incentivi per le auto e per gli elettrodomestici. Sarebbe questa l'indicazione fornita dal ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola. Anche qua vedremo come andrà a finire. Così come per la finanziaria per la quale il governo potrebbe mettere la fiducia in aula alla Camera, non è scontata ma è probabile, lo dice il vice ministro dell'economia Giuseppe Vegas. Ascoltiamolo. L'opposizione chiedeva un allargamento del contenuto della finanziaria per mettere altri temi. Sono stati messi questi altri temi, non credo che si possa lamentare. Ed è chiaro che quando si mette tanta carne al fuoco bisogna essere un po' rigidi, perché altrimenti si rischia di fare qualche guaio. Quindi è ovvio che la maggioranza, solidale col governo, non ha presentato, ha ritirato i suoi emendamenti in modo da approvare il testo del relatore, ma mi sembra il minimo in queste occasioni. Ancora una voce di maggioranza, poi verremo all'opposizione. Intervistato da Valeria De Rosa, il relatore di maggioranza alla finanziaria, Massimo Corsaro, sempre sulla votazione di oggi. Io rilevo come l'opposizione ha presentato, legittimamente per carità, alcuni emendamenti che sostanzialmente impiegavano in modo fortemente alternativo a quello che avevamo stabilito noi d'intesa come maggioranza e governo le risorse utilizzabili, soprattutto quelle che provenivano dal cosiddetto introito dello scudo fiscale. Le due manovre sostanzialmente erano inconciliabili tra loro, anche se era pienamente legittima anche la proposta dell'opposizione. In questo senso abbiamo inteso mantenere la linea che avevamo deciso di assumere. Ciò non di meno, l'opposizione ha avuto il modo di discutere per tutta questa notte in commissione le proprie proposte. La cosa curiosa è stata che quando hanno capito che non c'era possibilità di incunearsi in forse dal loro punto di vista auspicabili rotture interne alla maggioranza, che non solo non si sono verificate ma non sono nemmeno mai state ipotizzate, hanno deciso, invece che stare in aula a votare i loro emendamenti, di andarsene via lasciandoci da soli. Noi abbiamo proceduto alla votazione comunque degli emendamenti che loro avevano presentato, bocciandoli e poi confermando invece una manovra che abbiamo ritenuto importante, perché impegna quasi 9 miliardi di euro e in particolare interviene nei campi sociali, soprattutto per quanto riguarda 1 miliardo di investimento sugli ammortizzatori sociali, ma interviene anche sull'economia, con particolare riguardo ad alcuni settori che aspettavano delle risposte importanti, come l'agricoltura, come il sistema della piccola e media impresa, come il mondo dei confidi, ma anche con un intervento di supporto agli enti locali, cui vengono restituiti 1.500 milioni di 1,5 miliardi di euro sostanzialmente per compensare il mancato introito dell'ICI. Veniamo all'opposizione, appunto le due opposizioni, sia il PD che l'UDC, intervistato sempre da Valeria De Rosa. Il capogruppo PD in Commissione Bilancio, Pierpaolo Baretta, spiega le ragioni della decisione delle opposizioni di abbandonare l'aula al momento del voto. Noi ci siamo dissociati da questa prassi che comporta il fatto che ci sia un maxi emendamento in Commissione con una specie di fiducia anticipata, ed è la prima volta che nessun emendamento né della maggioranza né dell'opposizione viene discusso o entra nel testo della finanziaria. Tutto questo fa da sfondo ad un problema di contenuti, nel senso che da questa finanziaria manca totalmente un intervento a favore della famiglia e un intervento a sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Il sottosegretario Vegas ha detto che molto probabilmente, se ci saranno molti emendamenti anche in aula, a quel punto anche lì la fiducia sarà quasi inevitabile. Si vede che c'è un atteggiamento strumentale, perché in commissione noi abbiamo presentato un numero molto limitato di emendamenti selezionandoli, e questo non ha evitato il blocco da parte del governo. Devo dire che dopo quello che è successo in questi giorni trovo francamente un po' ridicolo che il governo scarichi sull'opposizione le responsabilità della fiducia. Credo che sia un giochino che ormai non funziona più. Questo dunque Baretta. Infine, sempre al microfono di Valeria De Rosa, il presidente dell'UDC Rocco Buttiglione. Il governo può proporre una legge finanziaria, ma la legge finanziaria la fa il Parlamento e deve essere discussa con il Parlamento. Un atteggiamento che a priori rifiuta qualunque modifica è un atteggiamento arrogante che svuota le prospettive del Parlamento. Lo dico a difesa non della minoranza, che tanto non ha i voti di far passare i suoi emendamenti, ma del Parlamento, perché questo è fatto contro tutto il Parlamento e soprattutto contro la maggioranza, per impedire che i deputati di maggioranza possano liberamente correggere, dove lo ritenessero opportuno, la proposta di legge del governo. In modo particolare c'è una questione su cui la maggioranza molte volte si è impegnata: la promessa di un aiuto alle famiglie, e in modo particolare alle famiglie più numerose. Non c'è nulla. Dopo 2 anni il governo per le famiglie ancora non ha fatto nulla, nonostante in campagna elettorale ne abbia molto parlato. Noi abbiamo delle proposte serie sulle famiglie. Chiediamo che vengano discusse, che vengano votate. Proprio a questo proposito, Vegas ha già detto, nel caso in cui ci saranno molti emendamenti, sarà quasi inevitabile la fiducia poi in aula. A che serve? A nessuno. O meglio, può servire solo a un governo che voglia rifiutarsi al confronto con il Parlamento. Si autolimitino le opposizioni, cioè le opposizioni facciano un numero di emendamenti limitato, in modo che non ci siano problemi di tempo, ma questi emendamenti vengano presi sul serio. Bene, ci perdonerete la deviazione in politica, ma anche in questo modo si costruisce una legge finanziaria, naturalmente. Le 17, 39 minuti e 50 secondi, è il momento della borsa. Guido Maurino di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, giornata complessivamente ci sembra piuttosto debole. Adesso vedo che insomma gli indici stanno forse lievemente migliorando, ma poca roba. Sì, una giornata diciamo quasi prefestiva, con pochi scambi e pochi spunti di reale interesse. Mancavano oggi dati macroeconomici americani significativi e così a tenere un po' banco sono state ancora le preoccupazioni per il Dubai, per la Grecia, nonostante alcune parole comunque di rassicurazione sullo stato della crisi arrivate da parte di Trichet. Milano ha così chiuso in calo di circa mezzo punto percentuale, col FTSE MIB che è ceduto lo 0,6%, il FTSE All Share lo 0,54%, e anche le altre piazze europee si sono mosse più o meno lungo questa direttiva. In questo momento in realtà l'America è in positivo, il Dow Jones guadagna lo 0,25%, il Nasdaq invece è in lieve calo dello 0,01%, ma sostanzialmente siamo in parità. Storie da segnalare oggi, vedo molto bene Campari, Guido, più 1,92% in chiusura. Sì, Campari diciamo che dopo alcuni cali della scorsa settimana ha avviato questa settimana in modo molto positivo, il titolo continua a essere molto ben visto soprattutto dagli analisti, continua quindi il trend e anche oggi appunto ha guadagnato chiudendo praticamente sui massimi degli ultimi due anni. Bene in pregiro più 0,96%, Geox più 0,86%. Sì, è stata una performance positiva per Geox dopo l'articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, la lettera all'investitore in cui l'amministratore delegato Mario Moretti Polegato ha rassicurato che l'attuale momento di difficoltà del gruppo verrà superato e conta di tornare a una crescita in doppia cifra. La strategia del gruppo passa anche attraverso un potenziamento dei negozi monomarca, ha detto un po' legato, che arriveranno a generare il 50% del fatturato. La società poi guarda ovviamente alle vendite natalizie, visto il periodo, e si augura che nel caso possano ripartire, che il Natale sia un Natale positivo, anche gli ordini possano riprendere e quindi si inizia a vedere i risultati di questo processo già a partire dalla seconda metà del 2010. Altri titoli in positivo, UbiBanca più 0,40%, CIR più 0,29%, ST Microelectronics più 0,26%, Finmeccanica più 0,18%, Tenaris più 0,15%, Monte dei Paschi più 0,08%, Lottomatica e Terna in perfetto pareggio e siamo naturalmente sempre sul FTSE MIB. Benissimo, ha fatto oggi Italis, Guido. Sì, oggi i titoli di Italisa hanno guadagnato il 90,76%, oggi era il primo giorno dell'aumento di capitale da 1,2 miliardi varato dall'istituto. Diciamo che a fronte di questo più 90% del titolo sono invece calati in modo molto forte i diritti legati all'aumento di capitale e questo è una cosa che spesso si verifica ultimamente quando ci sono degli aumenti di capitale, soprattutto nei primi giorni, con il titolo che va molto bene e i diritti che vengono molto penalizzati. Col passare del tempo poi c'è una sorta di riequilibrio, anche perché diciamo da un punto di vista tecnico le azioni del Banco Popolare viaggiano oggi attorno a 1,59 euro, mentre guardando soltanto ai diritti legati all'aumento di capitale, il valore dell'azione varrebbe circa la metà. C'è un disallineamento che si verifica spesso in questi casi e che nei prossimi giorni probabilmente verrà recuperato. Tra i titoli in rosso, Prismia meno 2,21%, Autogrill meno 1,89%, fermiamoci su Telecom Italia, un calo di 1,5% circa, Guido. Sì, il titolo ha risentito di uno studio pubblicato dagli analisti di JP Morgan che hanno sì confermato un rating sul titolo neutral, ma hanno abbassato il prezzo obiettivo da 1,23 a 1,20 euro. Secondo gli analisti della banca americana, Telecom Italia sta risentendo di una concorrenza agguerrita che le sta strappando quote di mercato e la spinge a investire per cercare di invertire il trend. Al momento prevedono un EBITDA stabile anche per l'anno prossimo, tuttavia sono preoccupati che la società in realtà possa fare peggio delle attese, per cui insomma hanno rivisto leggermente al ribasso il prezzo obiettivo sul titolo. Giù a 2A dell'1,44%, Fondiaria 6 dell'1,40% e poi c'è tutto un gruppo di bancari che va piuttosto male. Insomma, oggi la giornata per il comparto è stata negativa, salvo un paio di eccezioni: Intesa San Paolo meno 1,22%, Unicredit meno 1,05%, Banco Popolare meno 0,96%, la Popolare di Milano in calo dello 0,85%, Male Mediolanum dello 0,76%, Mediobanca dello 0,72%. Cosa succede qua? C'è una debolezza, diciamo, generale del comparto bancario che oggi si è verificato un po' su tutti i listini europei. Le questioni sono sempre due: da una parte il Dubai, con i creditori di Dubai World che oggi dovrebbero riunirsi per iniziare a valutare le strategie per capire come il colosso del Dubai può riuscire a onorare i suoi debiti. Dall'altra parte c'è la Grecia, anche Trichet oggi è intervenuto sulla questione greca chiedendo riforme urgenti e riforme forti, per cui questa doppia crisi in qualche modo va a pesare soprattutto sui titoli del comparto bancario. In negativo troviamo anche Fiat, meno 0,57%, Parmalat anche qua un calo di 0,5%, Pirelli dello 0,46%, Ansaldo dello 0,30%, Snam Rete Gas dello 0,29%, Mediaset dello 0,28%, Exor dello 0,23%, Italcementi dello 0,22%, Eni dello 0,18% e tutti gli altri, insomma, siamo appena sotto la parità. Qualche segnalazione dai titoli minori, Guido? Sì. Diciamo oggi un piccolo exploit per una società molto piccola, Mondo Home Entertainment, che ha guadagnato il 25% dopo che proprio questa mattina ha annunciato di aver siglato un accordo con Rai Cinema per due contratti per la cessione in licenza di un pacchetto di film che fanno parte del suo listino. È un contratto che vale 1,5 milioni di euro, un importo fra virgolette modesto per le società di borsa, ma trattandosi di un piccolo titolo ha provocato una corsa agli acquisti molto, molto forte, con scambi elevati per il titolo. Grazie Guido Maurino di Radio Cuore il Sole 24 Ore per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata. Le 17:50 minuti, 30 secondi, veniamo dunque al tema del vertice sul clima di Copenaghen, perché al di là delle grandi preoccupazioni per il futuro del pianeta è una questione, questo vertice sul clima si gioca moltissimo su fattori economici, su schieramenti opposti in campo, appunto sul fronte economico, come per esempio i cosiddetti paesi emergenti, che più emergenti tanto non sono, insomma, come Brasile, Cina e India, che si stanno sostanzialmente accordando per una linea comune, perché rispettare determinati standard sul fronte delle emissioni per questi paesi che si affacciano adesso ad una società industriale oggettivamente costa dei soldi. Ci colleghiamo in diretta col nostro inviato Gigi Donelli, il nostro inviato a Copenaghen. Buongiorno Gigi. Buonasera Simone, buonasera agli ascoltatori. Mi hai ben corretto, buonasera. Allora Gigi, iniziamo proprio dai cosiddetti BRIC. Noi ne parliamo quando parliamo di investimenti. Diciamo BRIC per intendere Brasile, India e Cina. In questo caso invece ne parliamo sul fronte del clima, perché c'è una qualche preoccupazione da parte di questi paesi sull'impatto economico che un eventuale accordo di questo tipo potrebbe avere. Gigi. Assolutamente, come hai detto in apertura, è questione di soldi, non ti girare intorno. C'è un elemento ambientale su cui c'è una sempre più ampia condivisione delle questioni, naturalmente ci sono dei temi fortemente scientifici, poi quando ci si ritrova comunque all'interno di un perimetro comune di condivisione emerge la questione dei soldi, e India, Cina e Brasile nei giorni scorsi sono stati quelli più espliciti a dire: attenzione, non siamo disponibili in sostanza a pagare noi il costo di un tipo di crescita che voi, cioè paesi oggi post-industrializzati, Stati Uniti in testa, avete cavalcato per tutto il Novecento, ora che arriviamo noi, come tu hai giustamente detto, altro che paesi in via di sviluppo, ma insomma sviluppandi, come li chiamano qui con un orribile neologismo. Quindi non siamo disposti a pagare il conto. Oggi da questi tre paesi, che di fatto costituiscono ormai un nucleo a sé, sostenuti poi dal Sudafrica, arriva la dichiarazione di volontà di apertura. Quindi sicuramente diciamo la sensazione è che non intendono arrivare a uno scontro che tutto sommato non conviene a nessuno, ma la questione sarà sui numeri e quindi nella vera e propria contrattazione dei contenuti e dei numeri possibili. Allora, questo è il macro schieramento, dunque paesi, e usiamo questo neologismo, sviluppandi contro paesi già sviluppati, post-industrializzati, insomma chiamiamoli come vogliamo. E poi all'interno ci sono degli altri micro schieramenti, perché non è che all'interno dei paesi sviluppati tutti la vedano nella stessa maniera, per esempio perché ci sono naturalmente dei problemi per le industrie dei paesi industrializzati e già ampiamente industrializzati, come ad esempio l'Italia, a rispettare determinati vincoli, Gigi. Assolutamente, se vogliamo proprio dirla, come diciamo, se vogliamo metterla sul piano delle sfide, qui ce ne sono almeno 7-8, perché poi troviamo dei gruppi di interesse abbastanza insoliti, che ve ne cito solo uno al volo, vede per esempio l'Olanda assieme al Bangladesh, perché è un paese rivierasco e vive nella stessa, diciamo, modo il problema del potenziale innalzamento del mare. Ma restando proprio agli elementi economici, certo, due grandi famiglie fondamentalmente su quelle che sono le conseguenze e i costi. Qui a Copenaghen si arriva con un'eredità, che è quella di Kyoto del 97, che porta il, diciamo, sistema dei certificati. Oggi si discute se sono più opportuni appunto certificati o semplicemente la carbon tax. Molti esperti, soprattutto nel campo della scienza, sostengono la carbon tax. Un vero e proprio guru come James Hansen, scienziato di altissimo livello, dice e critica l'impianto di Kyoto, perché dice i certificati sostanzialmente sono una questione di baratto. Lui li paragona, immaginate, alle indulgenze, e quindi dice i ricchi possono pagare, i poveri in questo modo ottengono dei vantaggi nel breve termine, ma di fatto non sostengono lo sviluppo. Insomma, quello del sistema dei certificati ereditati da Kyoto 97, peraltro è sostenuto dagli Stati Uniti, sostenuto anche in linea di principio dall'Europa, anche se, come hai accennato, non tutti sono contenti, tutt'altro. In Europa questo tipo di sistema è operativo dal 2005, ma l'Italia ha sempre detto, e lo dice sempre più forte, che gli accordi fatti sono assolutamente svantaggiosi, e di questo ovviamente si preoccupa. Bene, vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni. Intanto ringraziamo Gigi Donelli, nostro inviato a Copenaghen, che ritroveremo naturalmente nei nostri giornali radio e non solo, quando si parla di crediti, giusto per chiarirlo a chi ce lo chiede via SMS, si parla in sostanza della compravendita di crediti di emissioni, come se fossero azioni regolarmente scambiate in borsa. In pratica i governi nazionali stabiliscono un tetto alle emissioni di ogni singola azienda, rilasciando gratuitamente un numero equivalente appunto di crediti. Le 18:08:05, siamo dunque a parlare della Grecia, mentre dalle agenzie continuano ad arrivare notizie sugli scontri che stanno avvenendo in città, degli anarchici che commemorano la morte di Alexandros Grigoropoulos, se lo fanno sostanzialmente scontrandosi con la polizia, gli ultimi scontri sono davanti al Politecnico di Atene. In realtà tutto questo fa da sfondo ad una situazione economica e finanziaria del paese paese che è estremamente difficile. Perché? Che cosa è successo? È successo che quando è entrato in carica il nuovo governo, alla metà di ottobre si è scoperto che il deficit, il rapporto tra deficit e PIL greco, che si attestava al 3,7% sulla carta, era in realtà al 12,7% nei fatti. Vogliamo chiamarlo un falso di bilancio di Stato sostanzialmente. I rendimenti dei titoli di Stato sono saliti fino al 25% in più dei bund tedeschi. Gli obiettivi del governo greco a questo punto si sono aggiornati naturalmente: 9,1% nel rapporto tra deficit e PIL per il 2010, mentre la stima europea è dell'11,1%. Un fatto che ha un precedente, perché già nel 2004 Bruxelles aveva aperto un procedimento di infrazione contro la Grecia per aver falsificato le statistiche sul deficit pubblico a partire dal 1997, e le autorità avevano poi ammesso che senza quei ritocchi la Grecia non sarebbe entrata a far parte dell'area dell'euro neanche nel 2001. Questo è il quadro della situazione che potrebbe portare, e le voci che si rincorrono in queste ore sono abbastanza chiare, a quello che è il primo default da che esiste l'euro. Ne parliamo con Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore, che è esperto di Grecia ed è tornato adesso da quel paese appunto. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera Marco Cecchi De Rossi, amministratore delegato di Fitch Italia, una delle agenzie di rating. Buonasera Cecchi De Rossi. Buonasera a voi. Allora, ci sono naturalmente le rassicurazioni del governo: nessun pericolo di bancarotta per la Grecia, assicura il premier Gheorghe Papandreou, il suo ministro delle finanze Gheorghe Papakonstantinou, chiedo scusa se la pronuncia non è perfetta, lo chiedo scusa Papa a te. Costantino. Ok, perfetto, dice che è stata riguadagnata la fiducia dell'Europa, su questo vedremo. Ci sono intanto le parole del presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, che dice la situazione in Grecia è molto difficile, ascoltiamole. The situation in Greece. La situazione dei conti pubblici della Grecia è molto difficile. Ripeto, molto difficile. Tutti siamo a conoscenza dei dati e conosciamo le misure molto importanti e coraggiose che dovranno essere prese per rimettere la situazione in carreggiata. Mi riferisco sia alla situazione dei conti pubblici sia alle strategie macroeconomiche del Paese. La situazione attuale richiede che vengano adottate misure molto difficili e molto coraggiose, ma assolutamente necessarie. Sono fiducioso del fatto che il governo greco, lucidamente, valuterà la situazione in modo oggettivo e agirà in modo responsabile, prendendo le decisioni appropriate. Allora, inizierei col nostro Vittorio Darold e ti chiederei, Vittorio, innanzitutto di aiutarci a fare un punto della situazione. Sì, innanzitutto il premier Gheorghe Papandreou vince le elezioni e le vince con un ampio margine, dando stabilità all'azione di governo. Che cosa succede però? Che appunto dopo pochi giorni viene a controllare quello che è l'Istat greco, che ha una nomina politica, ed è qui il primo problema, cioè la statistica soffre di una nomina di tipo politico che in qualche modo quindi pesa sui risultati. E qui c'è la prima sorpresa, una sorpresa che all'interno di un malessere generale, perché erano i giorni in cui si scoprivano il problema di Dubai, ecco che allora scoprire che la Grecia dal 3,6 a un 12,7% di deficit fa allarmare i mercati, che fanno schizzare subito appunto la situazione dei bund. A quel punto il governo deve cambiare completamente strategia e ancora nei suoi primi 100 giorni deve chiedere al paese di cambiare tutta la sua programma, quindi non più una politica di espansione, di accelerazione di consumi interni e quindi di riduzione delle tasse, ma al contrario deve cambiare completamente il programma e dire: dovremo bloccare i salari naturalmente pubblici, dovremmo bloccare le assunzioni, e quindi è un cambio totale di strategia. Cosa alla quale la Grecia è costretta, anche perché al di là del dato sul deficit, che può essere anche transitorio perché ci sono altri paesi, non solo nell'area euro, che in questo periodo di difficoltà economiche e di crisi sono stati costretti a incidere appunto sul rapporto tra deficit e PIL, rapporto tra deficit e PIL sul quale ha un impatto non solamente l'aumento del deficit ma naturalmente anche la diminuzione del prodotto interno lordo, ma soprattutto è dato dal fatto che la Grecia ha un debito molto elevato, paragonabile a quello italiano peraltro. Sì, assolutamente, al primo posto, a 120% del PIL. In più la Grecia ha due grosse, diciamo così, sono il turismo, perché è un'economia di servizi, e appunto i noli marittimi. Tutti e due questi servizi, tutti questi settori, sia il turismo appunto che i noli marittimi, sono in grave difficoltà. Il turismo quest'anno ha perso tra il 19 e il 20% e i noli marittimi dicono appunto, lo dice l'indice Baltico, è in una difficoltà ormai da un anno, e quindi i greci dicono si può andare dal Pireo all'isola di Salamina, che è poco distante, passando sulle tolde delle navi, tante sono le navi attraccate al Pireo perché nessuno appunto le usa, ecco, quindi... Benissimo, fermiamoci qua per il momento. Prima della viabilità io ho una domanda per Marco Cecchi De Rossi, amministratore delegato di Fitch Italia. Naturalmente precisiamo che la Grecia vale circa un 3% del prodotto interno lordo europeo, quindi il rischio di sistema, anche se lo diciamo ma pronti a smentirci naturalmente perché di questi tempi non si sa mai, il rischio di sistema è abbastanza limitato. Marco Cecchi De Rossi, la prima domanda è sul rischio effettivo di default per la Grecia, lei che cosa ne pensa? Ma ne penso che abbiamo recentemente anche abbassato di nuovo il rating alla Grecia, il rating sovrano ovviamente, e questo in funzione e in relazione all'andamento dell'economia, all'andamento della finanza pubblica, ma rimarrei soprattutto sul primo punto, perché che la Grecia fosse un paese diciamo relativamente a più alto rischio nell'ambito dell'area euro era una cosa nota dall'euro, da quando la Grecia entrò nella far parte dei paesi che aderiscono a quest'area valutaria. La Grecia, come altri paesi, abbiamo visto recentemente che altri paesi, soprattutto piccoli di dimensione, quali l'Irlanda per esempio, che hanno avuto peggioramenti della situazione della finanza pubblica e hanno dovuto far fronte a questi peggioramenti con misure straordinarie di carattere fiscale. Quindi due punti fondamentali, uno diciamo in negativo, che effettivamente i paesi più piccoli sono più esposti, più piccoli ma anche più concentrati su specifici settori, quindi con economie meno diversificate, cioè il caso dell'Irlanda è il settore diciamo dei servizi finanziari e immobiliare, il caso della Grecia veniva ricordato poco fa, quello del turismo e dei noli, sono in casi di crisi per di più originate proprio nel mondo finanziario più esposti di altri a fibrillazioni, diciamo così, dal punto di vista della tenuta della finanza pubblica. Nello stesso tempo bisogna ricordare che tutti e due questi paesi beneficiano e sostanzialmente dell'appartenenza a un'area valutaria forte, ampia, diversificata, quale è quella dell'area euro. Per cui bisogna, ecco, nel valutare la Grecia e l'Irlanda o comunque paesi che appartengono a aree valutarie, tenere presente che c'è un sistema di recupero volontario basato su accordi internazionali sottoscritti che viene sottoposto continuamente a test, ma che apparentemente finora ha funzionato. Benissimo, una sorta di ammortizzatore sociale per paesi, se così vogliamo chiamarlo. 18-19 minuti 50 secondi, Marco Cecchi De Rossi, amministratore delegato di Fitch Italia, ci diceva, paragonava poco prima della viabilità la situazione greca a situazioni come per esempio quella dell'Islanda o dell'Irlanda, e però è vera una cosa, Cecchi De Rossi, che se in questo caso noi stiamo parlando di un paese che ha una difficile credibilità. Ci consenta di usare questa espressione che abbiamo usato anche prima. Insomma, è un paese che si è macchiato di falso in bilancio di Stato per due volte nell'ultima dozzina d'anni. E questo è abbastanza significativo dal punto di vista dei mercati, insomma, per i mercati e per voi, agenzie di rating, e naturalmente anche per gli altri governi. Ma guardi, il problema reputazionale è assolutamente importante sui mercati, sia per i governi che per le imprese che per le banche. Su questo assolutamente non c'è nessun commento da fare, un'affermazione, quasi un postulato direi. Sul fatto poi che alcuni paesi abbiano una fama piuttosto che un'altra, io vorrei stare più ai fatti. E non per giustificare nessuno, ma se guardiamo un po' nella storia, sicuramente post-euro, nell'area euro, di questo tipo di discussioni se ne sono avute molte e non hanno riguardato solo la Grecia. Quindi direi che il problema greco va visto nei suoi fondamentali e credo che il punto cruciale della situazione attuale sia la volontà provata del governo di affrontarla nell'ambito degli accordi di Maastricht, sostanzialmente. Quindi più che recriminare o dare definizioni riguardo al passato che potrebbero essere ribaltate facilmente su un caso piuttosto che su un altro, io direi che quello che effettivamente ci occupa è valutare l'ampiezza, la profondità e quindi anche la credibilità però misurata dei fatti della reazione che avrà il governo greco riguardo alle proprie finanze pubbliche. Ricordiamoci comunque che nell'area euro uno Stato è un emittente come un altro, il problema casomai è dimensionale, si ricordava prima il peso relativo dell'economia greca rispetto al PIL diciamo dell'area euro. E quindi, ma dal punto di vista diciamo tecnico, dal punto di vista del default, uno Stato è come un'impresa, come una banca, è un emittente in euro e quindi risponde della sua economia, della sua capacità di gestire le proprie entrate, le proprie uscite, i propri debiti. C'è una cosa però, Cecchi di Rossi, mi scusi, che io ancora non riesco a capire. Io non riesco a capire come sia stato possibile, cioè come sia possibile mentire su un bilancio di Stato. Ma guardi, il termine mentire io non lo uso, tanto per cominciare. L'ho usato io. La rappresentazione dei conti pubblici che ovviamente è più o meno credibile e statisticamente accurata da paese a paese. È molto importante quello che veniva ricordato dal suo collega poco fa, cioè che queste autorità, come le banche centrali ad esempio, che hanno dei ruoli di comunicazione che attraversano i cicli politici, devono essere delle autorità indipendenti. Questo è un problema, ma quando il mercato sa che le autorità non sono indipendenti, prende le sue contromisure. Quindi si paga un po' di spread in più, per dirlo in termini cattivi. Quello che noi vorremmo vedere nei fatti, quindi la cronaca di questi giorni, noi come punto di vista dell'investitore in rischio Grecia, è appunto la volontà effettiva e la capacità del governo di gestire una manovra fiscale importante, perché qui ovviamente entrano in gioco problemi di tipo distributivo, cioè chi paga questo costo? E questo ovviamente crea tensioni sociali. Chi paga questo costo e che cosa deve fare il governo Vittorio D'Arolda? E poi Cecchi De Rossi citava il problema delle tensioni sociali, insomma, vedendo anche quello che sta succedendo nelle piazze in queste ore, qualche preoccupazione viene. Sì, assolutamente. Essendo appunto la Grecia nell'euro non può svalutare, questo era il classico via di fuga di queste situazioni. Quindi chi paga? A questo punto possono solo alzare le tasse, ma è una cosa piuttosto complessa, di lungo respiro eccetera, oppure ridurre appunto le spese. Per ridurre le spese hanno già proposto il blocco dei salari e delle assunzioni, devono mettere mano alla riforma delle pensioni portando tutti a 65 anni, e quindi la situazione è che il paese gli si prospetta una situazione di lacrime e sangue. Naturalmente i sindacati a questo punto è possibile che entrino in sciopero e cominci quindi una conflittualità interna, esattamente la situazione opposta a quella che il PASOK, il Partito Socialista, che aveva vinto le elezioni, ripeto, solo 6 ottobre, si presentava. Il vero problema, il vero rischio è la connessione tra una protesta sociale determinata appunto da riforme strutturali e una connessione con le proteste di tipo anarchico di questi giorni. Se ci fosse un saldo, una saldatura tra queste due forze, allora la situazione potrebbe essere veramente molto grave. Il tasso di affidabilità, Marco Cecchi De Rossi, del nuovo governo greco presso i mercati internazionali, che giudizio c'è? Qualsiasi nuovo governo, soprattutto se può contare su una maggioranza almeno numericamente consistente, ha sempre il beneficio della prova, è per quello che insisto sui fatti, perché anche ammesso, ma non concesso, che non conoscessero la situazione, in ogni caso devono governare, e devono governare per se stessi come diciamo maggioranza che è uscita vittoriosa dalle elezioni, devono governare per il paese e devono anche rispettare i patti internazionali, ma dico di questo sono pienamente consci, e ci sono rappresentanti greci nelle tutte le istituzioni europee e con incarichi anche di grande responsabilità, quindi non credo si sia da dubitare di questo. Certo, è una prova ardua, anche perché arriva forse alla fine, possibilmente alla fine di un ciclo difficile, come è stato ricordato anche poco prima, che ha impattato su due delle principali fonti di sviluppo del paese, che il turismo e i noli, che però si può pensare che con la ripresa generale dell'economia in Europa, ma non solo, possono vedere anche un ritorno diciamo a livelli di attività più vicini a quelli del passato, a partire già dall'anno che viene. Staremo a vedere dunque che cosa succederà. Grazie a Marco Cecchi De Rossi, amministratore delegato di Fitch Italia, grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore per essere stato con noi, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Filippo Aureggi in regia, grazie naturalmente a tutti voi per l'ascolto. Un'ultima nota, ci chiedete via sms quanto incide il PIL dell'Italia in Europa, circa il 10%, giusto per dare un'idea, in rapporto alla Grecia si diceva. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Focus Economia torna domani alle 17:00.